Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Nuovo appuntamento insieme all'Adico, l'Associazione Difesa Consumatori di Mestre. Ritroviamo con noi Gianluca Codognato. Ciao Gianluca. Ciao Francesco, saluto gli ascoltatori. Allora Gianluca, eccoci qua. Oggi parliamo di un fatto che in qualche modo voi avete già segnalato, era uscito anche sui giornali qualche giorno fa, ed è la vicenda capitata a un vostro associato che per alcuni motivi non era riuscito a pagare un'ultima rata da 224 euro a causa di un problema con la banca, e poi da qui sono iniziati i suoi problemi ben più grossi di 224 euro. Sì Francesco, la situazione che è capitata a un panettiere che lavora appunto a Mestre è una situazione sicuramente al limite, che però si può verificare nel momento in cui si accede a un finanziamento, a un prestito tramite banca o tramite finanziaria, perché come abbiamo avuto modo di dire in più occasioni, le insidie che si nascondono dietro alle richieste di un prestito sono molte. Bisogna stare sempre molto attenti al pagamento della rata, bisogna stare attenti a non farci altri prestiti, insomma siamo sempre attenti a invitare le persone a evitare il più possibile di accedere a prestiti o a finanziamenti. In questo caso stiamo parlando di una persona, di un nostro socio che si è rivolto a una finanziaria per un semplice finanziamento in realtà di 14.000 euro, quindi un vero e proprio credito al consumo, e per l'acquisto di una vettura di cui aveva forte necessità. Purtroppo questo era successo 4 anni fa, a causa di alcuni problemi economici inattesi, inaspettati, l'artigiano a un certo punto si è ritrovato nell'impossibilità di pagare le normali rate, che in realtà erano di 120 euro, di questo finanziamento. Allora si è rivolto alla finanziaria che, come succede spesso, e questa è una cosa che sottolineiamo, ha concesso un saldo e stralcio, sostanzialmente ha concesso la possibilità di abbassare il prestito, però stabilendo un piano di rientro anche più elevato rispetto a quello precedente. In questo caso infatti all'artigiano il debito è stato abbassato da 14.000 a circa 9.000 euro, e con delle rate da 224 euro l'una. Fortunatamente il panettiere mestrino ha ricevuto appunto un contributo sociale, improvvisamente un contributo sociale per una situazione familiare particolare, mm-hmm. E allora a questo punto l'assegno sociale era di 225 euro, l'hanno fatto arrivare a una banca di Marghera, e così la finanziaria poteva prendersi i suoi ogni mese la sua rata da 224 euro. Purtroppo però proprio per un problema con questo contributo, che a gennaio del 2016 non è arrivato, la penultima rata del saldo e stralcio non è stata pagata. Però la banca non ha avvertito l'artigiano, che si è accorto della situazione solo qualche mese dopo, e a un certo punto, a partire da agosto 2016, ha cominciato a ricevere circa 3 telefonate al giorno, quindi diciamo che in questo momento possiamo dire che ne abbia ricevuto almeno un centinaio di telefonate al giorno dal recupero crediti, che gli andava a dire che, avendo saltato quella penultima rata, avrebbe dovuto sborsare a questo punto 7.000 euro, che sarebbero stati 5.000 euro scontati con il saldo e stralcio, più 2.000 euro di interessi. Ecco, chiaramente a questo punto l'artigiano si è rivolto a noi, anche perché la colpa poi di quel mancato pagamento è attribuibile alla banca, però chiaramente resta emblematico il fatto che una rata saltata, per la quale ha dimostrato totale disponibilità di pagarla, ecco, una rata saltata ha creato questo incredibile penalizzazione, che non era neanche prevista dal contratto. Quindi ecco, adesso noi siamo intervenuti, anche perché dal racconto, da quello che abbiamo potuto esaminare tramite l'ufficio legale dell'Adico, abbiamo potuto vedere che l'Agos, che è la finanziaria appunto che ha fatto questo finanziamento, sì, concederebbe anche la possibilità di farci dare la penultima rata. Invece il recupero crediti vuole proprio questi 7.000 euro. Ecco, quindi anche qua la questione mi sembra ancora molto aperta. Adesso vedremo con il vostro ufficio legale che cosa riuscirete a fare. Sì, siamo appena intervenuti. L'idea è quella di ricondurre questo debito ai soli 224 euro che mancano, e casomai con ovviamente qualche interesse di mora, l'artigiano è disponibilissimo ovviamente a sborsare anche di più di quello che sarebbe stata quella penultima rata saltata. E certo, non si può pensare di andare a chiedere subito 7.000 euro a una persona che poi avendo chiesto un prestito precedentemente, sicuramente è palese che non navigasse in buonissime acque, e tanto più appunto con il sopravvenuto problema economico. Ecco. E poi ripeto, non era previsto, a quanto abbiamo potuto esaminare, non era previsto dal contratto che per una rata saltata, ripeto, non per colpa poi dell'artigiano in questo caso, per una rata saltata si arrivi a penalizzare in questa maniera la persona che ha chiesto il prestito, sapendo benissimo che poi farà molta difficoltà a poter tirar fuori adesso questi 7.000 euro. Ovvio. E la cosa quindi la terremo sotto controllo e riferiremo agli amici di Blu Radio Veneto, sempre attraverso voi dell'Adico. Quale consiglio possiamo dare agli amici che magari proprio che stanno ascoltando e che vogliono aprire un finanziamento a rate? Sì, riguardo a questa disavventura capitata a questo nostro socio, questa esperienza ci dice che la cosa migliore è comunque avvertire la propria banca che per qualsiasi problema veniamo subito appunto avvisati, nel senso che in questo caso se la banca avesse avvisato della mancanza di liquidità, perché non è arrivato quel mese il contributo sociale, avesse avvisato il nostro socio, a questo punto non ci sarebbe stato nessun problema, perché il nostro socio avrebbe subito riparato comunque pagando quella penultima rata in qualche maniera e poi andando ad onorare l'ultima. Per quanto riguarda invece la richiesta di prestiti, come Francesco abbiamo avuto modo di dire spesso, noi consigliamo vivamente di evitare il più possibile, e soprattutto in questo caso ci riferiamo al credito al consumo, che quindi è riferito a beni che non sono sempre essenziali. In questo caso la vettura era essenziale anche per il lavoro, eccetera, però molte volte ci indebitiamo per comprare il televisore, per comprare magari l'elettrodomestico che non serve. Quindi ecco, quella è da evitare, perché anche se al momento ci può sembrare una cosa affrontabile, si può succedere, come è successo per esempio a questo nostro socio, che da imprevisti che capitano da un momento all'altro ci impediscono poi di poter onorare la rata. Quindi facciamo un prestito, facciamolo il più sostenibile possibile, e soprattutto facciamone al massimo uno, andiamo a onorare questo, e se dobbiamo farne un altro aspettiamo comunque di aver concluso il precedente. Poi chiaramente c'è tutta la questione dei mutui, e là è tutto un altro campo, perché ovviamente l'acquisto della casa è uno degli acquisti più importanti per le famiglie, quindi non si può dire alla gente di non farsi un mutuo, e anche là sempre contrattare con la banca un tipo di mutuo, un tipo di rata sostenibile. Ecco, e magari per i mutui della casa le cose sono un po' diverse rispetto ai finanziamenti, però è sempre bene farsi aiutare. Se non ne capiamo troppo, una parola in più è importante, magari proprio anche in questo l'Adico può essere d'aiuto e di sostegno. Ricordo il sito associazionedifesaconsumatori.it, che è il sito dell'Adico. Grazie a te Gianluca, ci risentiamo lunedì prossimo. Grazie a te Francesco. Diritti e rovesci, in collaborazione con Adico, Associazione Difesa Consumatori. Per riascoltare questo programma, vai su bluradioveneto.it.